Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Homage to the Buddha, the Blessed Noble, and fully self-enlightened one. Omaggio al Buddha, al Beato, al Nobile e al pienamente autoilluminato. This evening, because there are some people who are very new to Buddhism, I just want to go over some basic understandings. Quindi questa sera, siccome ci sono delle persone che sono abbastanza nuove al buddismo, allora vorrei parlare di alcune questioni più di base. And then we have to discuss what the right intention is for coming to a Vipassana course. Poi parleremo di qual è la giusta, la retta intenzione che ci porta a voler partecipare a un corso di meditazione vipassana, a un ritiro. And then we have to talk about the actual techniques we're using and how to use them skillfully. E poi dobbiamo parlare delle tecniche che usiamo, che seguiamo e come le usiamo in maniera abile. So, the Buddha framed his teaching in what we call the Four Noble Truths. Il Buddha ha illustrato, diciamo, inquadrato i suoi insegnamenti in quello che chiamiamo le quattro nobili verità. The first one is that life itself is unsatisfactory. La prima nobile verità dice che la vita stessa è insoddisfacente. And at times just plain suffering. E a volte proprio un semplice sofferenza. Ah, as the comedian said, life's hard and then you die. Come disse il comico, la vita è dura e poi muori. The cause of this suffering is desire. La causa di questa sofferenza è il desiderio. Now we have to be clear about what he means by desire. Quindi dobbiamo essere molto chiari rispetto a cosa il Buddha intenda per desiderio. It's a specific type of desire. È un tipo specifico di desiderio. And what it's driven by is a search for happiness. Quello che lo spinge, diciamo, gli dà forza, è la ricerca della felicità. Mm. If you ask yourself, what do you want most of all? Se vi chiedete, ma cos'è che voglio più di tutto? Is to be happy, no? È di essere felice, no? Everybody will have their own idea of what happiness is, but everybody wants to be happy. Ognuno avrà la propria idea di che cos'è la felicità, ma tutti vogliono essere felici. And that drive to happiness is either going to lead us to real happiness or to a substitute happiness. E quindi questa spinta verso la ricerca della felicità o ci porterà a una vera felicità oppure a un sostituto, qualcosa che sostituisca questa vera felicità. Mm. So the Buddha wants us to make that distinction. Quindi quello che il Buddha vuole è che noi facciamo questa distinzione. And we know that when we chase a desire, through the meditation we begin to realize that certain desires cause us suffering. E vediamo, soprattutto attraverso la meditazione, che quando rincorriamo i nostri desideri, alcuni di questi desideri ci causano sofferenza. Ah, so this is what we have to be clear about. Ed è su questo che dobbiamo essere molto chiari. And there are two types of desires. Sono due tipi di desideri. One is that we want to get rid of anything that disturbs us. Il primo è che vogliamo sbarazzarci di qualsiasi cosa che ci disturbi. Yeah. We would prefer to annihilate our enemies. Preferiremmo annichilire, eliminare i nostri nemici. And if the enemy is too big, then we want to run for it. E se il nemico è troppo grosso, allora vogliamo scappare. So this is our desire when it comes to anything which is uncomfortable for us. Quindi questo è il desiderio che abbiamo ogni volta che incontriamo qualcosa che per noi crea disagio. Psychologically, we suppress and repress those things that we don't want to feel. Psicologicamente noi reprimiamo, sopprimiamo quelle cose che non vogliamo sentire. And then the other side is that, of course, we want to acquire things. Invece l'altra faccia della medaglia, l'altra parte, è che noi vogliamo acquisire delle cose. Part of it is to do with safety. Molto di ciò ha a che vedere con la sicurezza. We feel much safer if we have a million euros in the bank than just 10. Ci sentiamo molto più sicuri se abbiamo 1 miliardo di euro in banca piuttosto che solo 10. We feel very much loved if we have lots of friends rather than just one. Ci sentiamo molto più amati se abbiamo tanti amici piuttosto che uno solo. So we like to gather around us all these things and people to make us feel safe and happy. Quindi a noi piace raggruppare intorno a noi tutte queste cose o queste persone perché ci fanno sentire al sicuro e felici. So we have these three basic attitudes to life. Quindi abbiamo questi tre atteggiamenti di base nei confronti della vita. Acquisitiveness. Quindi questo desiderio di acquisire. Aversion. L'avversione. And fear. E la paura. From this base we create misery. Ed è proprio da questa base che noi creiamo questo stato di profonda tristezza, di miseria. And we do things which are harmful to ourselves and harmful to others. E facciamo cose che sono dannose per noi stessi e per gli altri. And so the second tier of suffering arises. E quindi sorge questo secondo livello di sofferenza. Guilt, shame and remorse. Il senso di colpa, la vergogna, il rimorso. And we keep trying to escape this by seeking more and more happiness in the world. E cerchiamo di fuggire a tutto ciò ricercando una sempre maggior felicità nel mondo. So when something upsets us or we don't want to think about something, then we turn the television on. Quando c'è qualcosa che ci disturba, non vogliamo pensare a una determinata cosa, accendiamo la TV. So the Buddha calls this seeking happiness here and there, you see. E il Buddha questo lo chiamava il cercare la felicità di qua e di là. Now, this happiness will never satisfy us. Questa sarà una felicità che non ci soddisferà mai. If only for the reason that it disappears, it changes. Anche solo per il fatto che cambia, sparisce. So therefore to rely on anything which is going to be transient seems a very bad investment. E quindi affidarci a qualcosa che per sua natura è così transitoria sarà un cattivo investimento. All this, there's a special word in the language, tanha. Sì? Tutto questo corrisponde a una parola nella lingua pali che è tanha. But there is another word which can point to desires which are wholesome and lead us to real happiness. Ma c'è un'altra parola che invece indica i desideri che sono salutari e che ci possono portare alla felicità, alla vera felicità. And you won't be surprised to learn that those desires are to do with love, compassion and sympathetic joy. E non vi sorprenderà sapere che queste cose hanno a che vedere con queste qualità della mente che sono la gentilezza amorevole, la compassione e la gioia compartecipe. So any time our desires is for the benefit of ourselves and others, then this is leading us towards a much more peaceful heart. Tutte le volte che i nostri desideri ci portano verso il beneficio di noi stessi e degli altri, questo condurrà ad un cuore molto più in pace. But the peaceful heart, the joyous heart, the beautiful heart is not the purpose of our meditation. Ma questo cuore pacificato o gioioso o bellissimo, insomma, non è lo scopo della nostra meditazione. The aim of our meditation is to find a happiness which doesn't change at all. perché lo scopo della nostra meditazione è trovare quel tipo di felicità che non cambia affatto. And so, especially for those of you who've been meditating a long time. E questo soprattutto per coloro che meditano da tanto tempo. When you are in the position of the observer within yourself. Quando vi trovate nella posizione dell'osservatore dentro di voi. Of the one who is feeling and knowing and experiencing. Di colui o colei che sta sperimentando o conoscendo. Experiencing. Sì, o sentendo. When you are in that position where everything becomes an object. Quindi siete in quella posizione in cui tutto diventa un oggetto. So the pain is there, over there. Allora lì c'è il dolore, laggiù. The pleasant feeling is there. It's an object. La sensazione piacevole è lì, è un oggetto. When you're feeling an emotion, the emotion is there. Quando sentite un'emozione, l'emozione è lì. When you do your noting, for instance, and you have pain in the knee, you can say, there's the pain, there. Quando fate la vostra etichetta mentale, per esempio c'è un dolore al ginocchio, allora voi dite, il dolore è lì. This separation of the knowing from what is known. Questa separazione del conoscere da ciò che è conosciuto. Is making us realize what the quality of the known is, of the knowing is. E questo fa sì che noi riusciamo a riconoscere la qualità del conoscere. Gioco di parole. Of the intuitive awareness. Ecco, quindi la qualità ci fa conoscere la qualità di questa consapevolezza intuitiva. And it is in that area that you will find a much more, that we will find a much more stable happiness. Ed è proprio in quell'ambito che noi troveremo una felicità molto più stabile. But here is the great contradiction for us. Ma è qui la grande contraddizione. In that perfect happiness, there is no emotions. In quella perfetta felicità non ci sono emozioni. Our deep confusion is that our happiness is an emotional happiness. La nostra profonda confusione è pensare che la vera felicità, la felicità più profonda, sia una felicità emotiva. So whenever you are in a very clear state of being the observer, you see. Quindi quando vi trovate in questo stato di essere un chiaro osservatore. Afterwards, ask yourself, what was the ingredients? What is the observer made of? Dopo, fatevi questa domanda. Quali sono gli ingredienti di questo osservatore? Cioè, di cosa è fatto l'osservatore? So, remember that when we talk about desire, we're talking about a desire that leads to unhappiness. It's a specific desire. Tenete presente che quando parliamo di desiderio, è quel desiderio che ci porta verso l'infelicità, è un specifico tipo di desiderio. It's a desire driven by acquisitiveness, aversion and fear. È un desiderio che è prodotto e spinto da queste forze del voler ottenere, acquisire, o l'avversione, oppure la paura. So now we have to begin to be clear about the attitude we ought to have to get the best benefit from our vipassana. Allora adesso parleremo di qual è il miglior atteggiamento da avere quando vogliamo avere il massimo beneficio dalla pratica di vipassana. Some people would hope for some physical benefits. Alcune persone vorrebbero avere dei benefici fisici. And there's no doubt that some healing takes place in vipassana. Senza dubbio un po' di guarigione avviene nella vipassana, cioè ha un effetto terapeutico, diciamo, fisico. But this is to be understood as more a result than a purpose. Ma questo è da intendersi più come un risultato piuttosto che lo scopo. And it is those maladies in the body that are caused by the mind which are normally healed. E sono proprio quei disturbi che sono prodotti dalla mente, quelli che vengono poi guariti con la meditazione. Mm. A lot of the pain that you get in meditation is caused by mental states blocked in the body. Molti dolori che si hanno in meditazione sono prodotti da stati mentali difficili che vengono come bloccati nel corpo. Mm. And that's why the posture is so important. Ed è per questo che la postura è così importante. The important part of the posture is the spine. E la parte più importante della postura è la spina dorsale. So when we sit up like this and draw the energy up the spine. Quando ci sediamo così e facciamo salire l'energia lungo la spina dorsale, la colonna vertebrale. And we relax everything else, the jaw, the shoulders, the stomach. E rilassiamo tutto il resto, cioè la mandibola, le spalle, lo stomaco. Yes, don't be afraid to let everything hang out. Non abbiate paura di far penzolare fuori tutto. Sbraccarvi, insomma. So you have to feel very relaxed. Dovete sentirvi molto rilassati. So, when we do that, we are drawing energy up the spine. Quindi quando facciamo questo, noi tiriamo, come se facessimo in modo che l'energia vada su per la spina dorsale. In our Western culture, we don't, as far as I know, we don't have this. Noi, nella nostra cultura occidentale, per quanto ne so, non ce l'abbiamo questa idea. I think Reich had. Who's it? Reich with orgone. Reich, orgone. Yeah, I think he understood that there was some energy in the body which was not emotional and which was not physical. Reich aveva scoperto che c'era qualcosa nel corpo che non era fisico ma che era emotivo. Not emotional. And not physical. Yes. Che non era né emotivo né fisico. Yeah. I think he called it orgone. E lo chiamava orgone. Yeah. Gli psicologi lo sapranno. But in the East they've long understood prana or chi or ki as they say in Japan. Però in Oriente hanno per lungo tempo scoperto questa energia che chiamano prana o chi o ki. Mm. And what happens when this energy rises? It begins to shake those parts of the body where we're holding things. E cosa succede? Che quando questa energia comincia a salire, ecco che scuote quelle parti del corpo dove noi stiamo trattenendo, where we're holding something. E quando, holding dove stiamo trattenendo qualcosa, dove abbiamo dei blocchi. Mm. So often we feel a great tightness around the abdomen. Spesso abbiamo una tensione nell'addome. Or in the stomach. O nello stomaco. Sometimes you feel nausea. A volte c'è un senso di nausea. Even in the chest, you feel nausea in the chest, very strange. A volte possiamo avere un senso di nausea nel petto, molto strano. And then you get pain in the muscles round the spine. E poi abbiamo dolori nei muscoli che stanno intorno alla spina dorsale. And especially around the back and the shoulders. Soprattutto nelle spalle, nella schiena. And headaches. Mal di testa. And neck aches, terrible neck aches. E anche mal di collo. Yeah. I hope I'm not putting you off. Spero che non vi sto scoraggiando. But all this is part of the healing process. Ma comunque tutto questo fa parte del processo di guarigione. And if of course after your sitting the pain continues for any length of time, say for a few hours or a day. Se questo dolore poi dopo la seduta continua per un po' di ore o per una giornata. Then maybe it's time to see the doctor. Forse allora è ora di andare dal medico. But what people normally find is that as soon as they get up, the pain stops. Ma quello che di solito si scopre è che appena ci si alza sparisce il dolore. So this tells the meditator that this is more a mental thing, not a physical problem. E questo indice che è più una questione mentale piuttosto che fisica. Mm. And when that's happening, although it feels as though it's pressurizing like crunching, how do you say that? Sì, anche se vi dà questa sensazione di pressione, come se vi stesse stritolando. Actually, what's happening is a releasing. In realtà quello che succede è che c'è un rilascio di tensione. Now that suitcases all have little wheels, we don't experience this opening of the hand from carrying something heavy. Adesso che tutte le valigie hanno le rotelle, non abbiamo più questa esperienza di come si sente la mano dopo che ha portato qualcosa di molto pesante. Ah, no? You see? So in the old days, the good old days, you had... People would understand this more clearly. Ai bei vecchi tempi, le persone questo lo capivano molto meglio. Ah. So, if some illness in the body is caused by the mind, this meditation will help to heal it in some way. Quindi se c'è una malattia, un disturbo nel corpo causato dalla mente, questo tipo di meditazione potrebbe aiutare a guarirlo in qualche modo. Because we're actually dealing with the purification of the heart, emotions. Perché abbiamo proprio a che fare con la purificazione del cuore, delle emozioni. In the when the Mahasi started teaching, they made a big list of all the different healings that went on at the Mahasi Center. Quando il venerabile Mahasi ha cominciato a insegnare, hanno proprio compilato una lista di tutte le diverse malattie o i disturbi che affliggevano, diciamo, i meditanti nel centro di Mahasi. Now this is the picture of the Mahasi on the wall here. Quella foto che vedete lì sul muro è proprio lui, è Mahasi. And the most dramatic one was a man who came with a very painful cancer in his stomach. È la situazione più drammatica, si può dire così in italiano, più grave, diciamo, o eclatante, è il caso di un meditante che è arrivato al centro con un tumore allo stomaco. And he determined just to sit with the pain. Sì. E lui si è preso questo impegno semplicemente di sedersi con il dolore. And as he describes it, there was an explosion in his stomach. E lui poi l'ha descritto come un'esplosione nello stomaco a un certo punto. And the cancer disappeared. Il cancro è sparito. Ah. So that shows you that, or that tells us that this cancer was caused by some emotional stress in the body. E questo ci dimostra che quel cancro era probabilmente dovuto a un certo stress emotivo nel corpo. One thing we come to realize very clearly in our meditation is that when there is a negative mental state, it's affecting the physicality of the body. Quello che scopriamo molto chiaramente nella nostra meditazione è che quando c'è uno stato mentale particolarmente negativo, questo ha un'influenza sul corpo sull'aspetto fisico. You only have to be with the body when you feel angry. E quindi basta pensare a quando rimaniamo nel corpo quando siamo arrabbiati. Just the heat, the beating heart, terrible. Sentite il calore, il cuore che batte, terribile. Sì. So, but if a person comes to the meditation with the desire to heal something, then it can become very frustrating. Ma se una persona si avvicina alla meditazione con il desiderio di guarire da qualcosa, beh, questo può diventare molto frustrante. Because all the time they're sitting there thinking, when's this explosion going to come? Perché per tutto il tempo stanno lì e aspettano e si dicono, quando è che avverrà questa esplosione? So be careful. We have to have a certain trust, a certain faith that this meditation will help us physically. Quindi state attenti, bisogna avere una certa fede e fiducia che questa meditazione in qualche modo ci aiuterà anche sul piano fisico. Yeah, we have to see it as a gift, as a result. Quindi questa guarigione eventuale dobbiamo vederla come un dono, come un risultato. Right. And it's the same with our emotional pain. E lo stessa cosa vale per quanto riguarda il nostro dolore emotivo. Yeah, so whatever emotional pain we have, something that's hurt us in the past that remains in our hearts. Qualunque dolore emotivo che abbiamo, magari qualcosa che ci ha feriti nel passato. Or some great fear, some great anger and so on. Una grande paura, una grande rabbia. So again, if we sit here with the intention of dealing with some emotional disturbance. Anche qui, quando, se ci sediamo con questa idea di dover affrontare un disturbo emotivo, then, okay, it may help us a great deal. Va bene, potrebbe aiutarci molto. Ah, and a lot of the mindfulness movement, which I'm sure you know about. Molto di questo movimento della mindfulness, che sicuramente conoscete bene. Is concerned with dealing with that sort of pain. Riguarda proprio l'affrontare o il gestire quel tipo di dolore. So, you know, mindfulness and stress reduction. Per esempio, la mindfulness e la riduzione dello stress. Yeah. Mindfulness now is a big movement. Adesso la mindfulness è un grande movimento. Lots of books. Tanti libri. There's even a book, Mindfulness for Idiots. C'è anche questo libro, Mindfulness per Idioti. It's actually very good. Effettivamente è molto bello questo libro. I recommend it. Ve lo consiglio. Yes. To use mindfulness in that sense, well, I mean, it's a benefit. Quindi usare la mindfulness in questo senso, beh, certo, è un beneficio. But in a sense, we're missing the real point of the practice. Ma in un certo senso perdiamo di vista il vero scopo della pratica. Now, of course, people come for spiritual reasons. Adesso le persone arrivano alla meditazione per motivi spirituali. So, they've heard of the Buddha's teaching, they've heard of Nibbana. Hanno sentito gli insegnamenti del Buddha, hanno sentito parlare del Nibbana. So they come to achieve Nibbana. E quindi arrivano alla meditazione per raggiungere il Nibbana. A friend of mine told me that when he first went on a course of meditation, he went to achieve Nibbana. Un mio amico mi ha detto che la prima volta che ha partecipato a un ritiro di meditazione ci è andato per raggiungere il Nibbana. Which is understandable. Ed è comprensibile. When you go for a course on cookery, you go for the course, then you get your certificate. Quando andate, fate un corso di cucina, voi frequentate il corso e poi vi danno un attestato, un certificato. As the week progressed, he realized that this Nibbana was difficult. Questo mio amico, man mano che la settimana andava avanti, si è reso conto che raggiungere Nibbana è un po' difficile. And although he was severely disappointed by the end of the week, he yet continued in his practice. Anche se era profondamente deluso alla fine della settimana, tuttavia ha continuato nella sua pratica. So everybody who comes to Buddhism has some idea of some idea of Nibbana. Those of you who read a lot will have know about the attainments. Quindi tutti quelli che si avvicinano al buddismo in un certo senso cercano il Nibbana, molti di voi avranno sentito parlare di questi attainments, sono realizzazioni. Yeah, realizzazioni. The four paths and fruits as they're called. Sono i quattro sentieri e i quattro frutti del sentiero. So when we come with that sort of idea, you see, the idea of what we are trying to achieve destroys completely the practice. E quindi quando arriviamo con quel tipo di idea, beh, è proprio l'idea stessa di ciò che noi stiamo cercando di ottenere che distrugge la pratica. And this is where our mind, our concepts, our perceptions and concepts are a great hindrance to our spiritual practice. Ed è qui che i nostri concetti, le nostre percezioni sono un ostacolo per la nostra pratica spirituale. And I'll talk more about that when we talk about the noting technique. E ne parlerò di più quando parlerò della tecnica della nota mentale. So, what is our attitude to be when we come to sit in meditation? E quindi quale dovrebbe essere il nostro atteggiamento quando veniamo a sederci in meditazione? It should be simply and entirely to observe, feel and experience what is actually happening in this present moment. Dovrebbe essere quello, semplicemente, di osservare, di sentire, di esperire intimately, in maniera intima, tutto ciò che sta accadendo in questo preciso momento. That's it. E basta. That's it. Everything else follows from there. Tutto il resto consegue da qui, ne consegue. If ever you have an idea, you're already positing somewhere you're going. Perché se arrivate già con un'idea, è come se voi poneste già l'idea, cioè il luogo in cui volete arrivare, ciò che volete raggiungere. Ah, so if we have an idea of Nibbana, you see, either we will not achieve it and be disappointed. Quindi arriviamo con un'idea di Nibbana, o non lo raggiungeremo e saremo delusi, or we will achieve it and be completely deluded. Oppure lo raggiungeremo ma saremo completamente illusi. Because all we will have attained is our idea of Nibbana. Perché quello che avremo ottenuto o raggiunto è la nostra idea del Nibbana. So whenever we come to sit, we must say to ourselves, all I'm going to do is observe, feel, experience intimately what is happening in this present moment. Quindi ogni volta che ci sediamo dobbiamo dire a noi stessi, io semplicemente osserverò, sentirò e sperimenterò in maniera intima tutto ciò che si presenterà in questo preciso momento. And this is what all Vipassana techniques are trying to make us do. Ed è quello che tutte le tecniche di Vipassana cercano di farci fare. Even the same practice in Zen. Anche nello Zen c'è lo stesso tipo di pratica. Yeah. All insight practice is to do with experiencing exactly what's happening now in this present moment. That's all. Quindi tutte le pratiche di insight, di intuizioni profonde, invitano proprio a osservare, a esperire ciò che sta accadendo in questo preciso istante e basta. So now, in this particular form, we have three techniques. Quindi in questa particolare forma, particolare tradizione, abbiamo tre tecniche. So the first one is this noting, you see. Quindi la prima tecnica è questa del notare, della nota mentale, dove poi tradurrò notare, anche se non è proprio esatto. The purpose is mainly twofold. Ha due scopi, principalmente. The first one is to contain the thinking mind, to stop it thinking about something. Il primo è quello di contenere la mente pensante, cioè interrompere il pensiero. So the noting has to be very simple and very direct. Quindi la nota deve essere molto semplice e molto diretta. Like the breath is just rising and falling, it's enough. Per esempio il respiro, alzarsi e abbassarsi, o su e giù. When in the mind is just thinking or dreaming or worrying or exciting, see, just a very simple word. Quindi ciò che accade nella mente può essere semplicemente pensare, immaginare, preoccuparsi. And exciting. È una cosa che ci eccita, diciamo. See, now, in Buddhist psychology, when you see something, there is both the experience at the sense base and the mind makes an image, a perception. Nella psicologia buddista c'è l'esperienza che accade alla base dei sensi e poi invece un aspetto mentale, una funzione mentale che crea un'immagine di quell'esperienza. So when I eat an apple, the first apple I eat, the mind creates an image of it which remains as part of my memory. Quindi io assaggio una mela per la prima volta, la mia mente crea una immagine che si fissa e diventa un ricordo. And the more apples I eat, the more subtle this image becomes till it forms a concept of apple. E più mele mangio, e più dettagliata e sottile diventa questo ricordo, fino a quando diventa così preciso che forma un concetto. So whenever I see an apple and taste it, I know if it's a good apple or not a very good apple or a terrible apple. Ogni volta che assaggerò una mela, io saprò se è una buona mela, una mela così così o una mela cattiva. But when I eat an apple now, I always eat it through the interpretation of my concept. Ma quando mangio una mela adesso, la mangio sempre attraverso l'interpretazione di un mio concetto. And therefore, our concepts distort all our experience by way of history. E quindi i nostri concetti è come se distorcessero tutte le nostre esperienze, proprio a causa di questo fatto che creano dei ricordi, creano una storia. When we are watching the breath, there are three things. Quando osserviamo il respiro, ci sono tre cose. There is first of all the note rising and falling. Innanzitutto c'è questa nota mentale, alzarsi e abbassarsi. So this is a concept. Huh? E questo è un concetto. There's also an image of the body rising and falling, an image in the mind. C'è anche un'immagine nella mente del addome che si alza e si abbassa. And there is just the sensations. E poi ci sono anche le semplici sensazioni. Both the image and the word are being created by the mind. Sia l'immagine che la parola sono creazioni della mente. If we want to see the breath as it really is, the sensation as it really is, we have to drive our attention to those basic sensations. Se vogliamo vedere com'è esattamente l'esperienza, quindi la sensazione, quindi dobbiamo indirizzare la nostra attenzione a quelle semplici, pure, crude sensazioni. So when we're meditating on the breath, even though I'm saying rising and falling, my attention is going towards the feelings, the sensations. Quindi anche quando meditiamo, anche se noi diciamo, usiamo l'etichetta mentale, alzarsi e abbassarsi, però la mia attenzione va nella direzione delle sensazioni. I want to find out how much my mind is creating from a basic stimulus, from a basic sense data. Voglio scoprire quanto la mia mente sta creando sulla base di un semplice stimolo sensoriale, un dato sensoriale. Because again, in the Buddha's understanding, the world we are living in is the world that we are actually creating all the time. Perché secondo il pensiero del Buddha, il mondo in cui viviamo è effettivamente il mondo che noi stiamo creando continuamente. Even though we can agree that this room exists, we each of us have a different perception of it. Anche se siamo tutti d'accordo che questa stanza esista, però ognuno di noi ha una percezione diversa di questa stanza. So our world is contained within the bubble of our consciousness. Quindi il nostro mondo è contenuto in questa bolla della nostra coscienza. And you can't escape it. E non riuscirete a scappare da questo. It's not possible for us to experience the world like somebody else is experiencing it. Non è possibile fare esperienza del mondo così come la sta facendo un'altra persona. And what this means is that the world we're living in is actually being created by me, this body, heart and mind. E questo significa che il mondo in cui vivo sta effettivamente, lo sto creando io con questo corpo, questo cuore, questa mente. And the mechanism inside that psychology is the mechanism of desire, which is either making the world terrible or beautiful for me. E il meccanismo che sta dietro questa psicologia è proprio il desiderio che fa sì che questo mondo sia bello o brutto per me. Terribile. So I need to begin to see how I construct the world. Quindi devo cominciare a vedere com'è che io mi costruisco il mondo. And I need to see where I'm doing something wrong. E devo cominciare a vedere dov'è che sbaglio. So all our meditation is concerned with observing very clearly, very directly what is happening in this present moment. Quindi tutta la nostra meditazione ha a che vedere con il capire ciò che sta veramente succedendo in questo preciso istante. Because it's only this moment that actually exists. Perché è solo questo momento che veramente esiste. So the noting is one way of just keeping the attention moving towards the object. Quindi questa nota mentale è un modo per mantenere l'attenzione continuamente diretta verso il suo oggetto. So it must be done deliberately, eh? Quindi va utilizzata intenzionalmente. Many meditators experience rising, falling, rising, falling. Quindi molti meditanti hanno esperienza dell'addome che si alza, si abbassa, The mind wanders off to Acapulco. Però la mente, intanto, mentre loro usano la nota mentale, la mente è Acapulco. And when they come back, there it is, rising, falling, E quando tornano, eccolo lì, di nuovo, alzarsi, abbassarsi. Now this is useless. E quindi questo è perfettamente inutile. Ah, it has to be deliberate, you see. Quindi deve essere una cosa intenzionale. And it has to be a very simple word. Deve essere una parola molto semplice. Now, for those of you who are staying the week, you see, every day should be the same. Per quelli di voi che rimangono tutta la settimana, dovrebbero, insomma, scegliere delle parole che rimangono poi sempre le stesse. Don't give yourself any choices. Non datevi delle scelte. Now you're sitting and you're doing this. Adesso siete seduti e state facendo questo. And then you go to the same walking place and you do that. Poi andate sempre nello stesso posto a fare la camminata e fate quello. Sì. And you go to the same seat in the dining room and you eat like this. Andate sempre nello stesso posto della sala da pranzo e mangiate così. Sì. So by doing the same thing day in and day out, month in, month out, year in, year out. You see? Slowly we begin to understand how we're creating this world. E quindi facendo sempre le stesse cose, un giorno dopo l'altro, una settimana dopo l'altra, mese dopo l'altro, anno dopo l'altro, si comincia a capire come funziona questo meccanismo. The spiritual life is one of repetition. Quindi la vita spirituale ha a che vedere proprio con questa ripetizione. Which only manifests our spiritual dullness. Che manifesta solo, cioè ci permette di far emergere il manifestarsi della nostra, come si può dire, spiritual dullness. Help me go, la nostra ottusità spirituale. In questa, una nostra superficialità spirituale. That noting, after a while, you see, you don't have to search for words because you're doing the same thing all the time. Dopo un po' non dovete neanche cercare la parola perché state facendo sempre la stessa cosa. When I worked with my teacher, I stayed in one room all the time. Quando lavoravo con il mio maestro, ero sempre nella stessa stanza. I only escaped to have breakfast and lunch. Uscivo solo per la colazione e il pranzo. And then finally to bed. E poi finalmente andavo a letto. Otherwise I was just stuck in this room, not much bigger than this. Se no ero sempre bloccato in una stanza, non più grande di questa. So by drawing the world close to ourselves, you see, there's no escape for the mind. Quindi è come se noi attirassimo il mondo sempre più vicino a noi, in modo che la mente non possa sfuggire. So either you make some form of spiritual insight or you go mad. Ora aggiungete una certa qualche forma di insight spirituale, di intuizione spirituale, oppure impazzite. Here is, the place is too big, it's not possible. Qui to go mad. È troppo grande, è impossibile. So try to use this noting technique, and once it becomes habitual, I think you'll see it's extremely useful. Quindi provate a usare questa tecnica della nota mentale e quando diventa abituale scoprirete che è molto utile. But remember that's not the end of our practice. The end of the Vipassana is to become so absorbed in the object that the noting just stops. Però questo non è il fine, diciamo, della pratica, perché il fine della pratica è quello di essere talmente assorbiti nell'oggetto che questa nota mentale poi sparisce. And that's the point of what we can say pure vipassana. E lì arriviamo a quello che si chiama la pura vipassana. So this happens in little bits and sometimes as we practice it grows a bit longer. E questo capita per brevi momenti, però man mano che pratichiamo questi si allungano. The second technique is to go slow. La seconda tecnica è quella di rallentare. Yeah. So some of you are already doing what you might call Olympic Mahasi style. Alcuni di voi già stanno facendo quello che potremmo chiamare lo stile Mahasi olimpico. I often thought of an Olympic race for who arrives last. Ho pensato di fare proprio una gara olimpica per chi arriva ultimo. The rule is that you cannot stop. La regola è che non ti puoi fermare. I shall apply. So, those of you who are new, you see, just see how people are going very, very slow, you see, and draw yourself down to that level of activity. E quando, per coloro di voi che sono nuovi a questa tecnica, a questa pratica, vedete se riuscite a rallentare come queste persone un pochino più esperte, e arrivate a quel livello. And you'll see, the slower you go, the more you see. E più lentamente andrete e più vedrete. Mm. It's the same as if you drive through the countryside or walk through it. È come la stessa differenza tra guidare attraverso la campagna oppure andare a piedi. And there are certain times that you can really go, you know, really take your time. E ci sono dei momenti in cui potete veramente prendervi il vostro tempo. So it's difficult when you're in a queue, such as you know, taking food. È un po' difficile quando siete in coda, per esempio, quando dovete prendere del cibo. Or the use of the bathroom at certain times of the day. Quando dovete usare il bagno in certe ore del giorno. But when it's possible, just do something very slowly and note all the different little actions it takes. Ma quando potete, fate qualcosa di veramente in modo veramente lento e notate tutte le piccole azioni, piccoli movimenti che sono necessari. So, like opening a door, you see, for me this is an existential moment. Per esempio, aprire una porta, per me questo è un momento esistenziale. Ah, so intending to open the door, you see. Quindi c'è l'intenzione di aprire la porta. And then moving. My attention is here in the hand, the sensation of moving, you see. Quindi muovere. La mia attenzione è nella mano, nella sensazione del muovere la mano. Then the touch of the metal. Poi il contatto con il metallo. Holding, then pushing. Poi tenere, spingere. Just the right amount of energy to move the spring. No less, no more. Ci vuole la giusta quantità di energia per, come dire, muovere la molla, la maniglia, né più né meno. Communicating with the spring. State comunicando con la molla. And pulling, you see. Poi tirare. And releasing. Poi il rilasciare. And then slowly walk through the door, turning. Poi lentamente entrare nella porta, girare. And then through the same process to close the door. E poi con lo stesso processo il chiudere la porta. See, and then just stand for a minute and say to yourself, the person who was on the other side of the door is dead. E poi state lì in piedi per un attimo e dite a voi stessi, la persona che stava dall'altra parte della porta è morta. And then finally there's intention. E poi infine c'è l'intenzione. So remember, intention is the crucial point in the Buddhist psychology where we can either create suffering or create happiness. E ricordate che secondo il pensiero buddista l'intenzione è proprio il momento cruciale in cui possiamo creare la sofferenza o felicità. Even when we do something automatically in the mind, somewhere there's been an intention and an empowerment of the intention. Anche quando pensiamo di fare una cosa automaticamente, in realtà nella mente c'è stata un'intenzione e poi il potenziamento di questa intenzione. I think there were some psychology tests which proved that we've already made the decision before we're aware of it. C'è stato un test psicologico che ha dimostrato che noi avevamo già, preso la decisione nella nostra mente prima di fare l'azione. Before we're aware of it. Prima di essere consapevoli di questa azione. So this is a very good definition of the unaware life. E questa è un'ottima definizione della della vita inconsapevole. This is the automaton, the human being just driven by desires. Questo è l'automa, cioè l'essere umano che è semplicemente spinto dai suoi desideri. So here, even the smallest movement you can actually intend. Quindi qui anche il più piccolo movimento si può effettivamente intendere. Può essere, spinto da un'intenzione. And the more you do it, the more you'll get the feeling of being very present. E più lo fate, più avrete questa sensazione di essere molto presenti. So these three techniques, the noting, the going slow, and the noting of intentions, is the basic Mahasi method. Quindi queste tre tecniche, quello della nota mentale, dell'andare molto lentamente e del notare le intenzioni, sono la base del metodo Mahasi. So just as a little exercise, when you stand ready to do walking meditation, you see. Quindi solo per darvi un esempio di un piccolo esercizio che potete fare, quando siete in piedi, prima di fare la meditazione camminata. So you're saying intending to walk, you see, intending to walk. Voi dite a voi stessi intenzione di camminare, intenzione di camminare. Just to say intending to walk is the intention. Quindi semplice dire intenzione di camminare è l'intenzione. And you can feel the energy wanting to move. E sentite l'energia che vuole muoversi. But nothing happens. Non succede nulla. You could be there for 1 year, intending to move. Potreste stare lì per un anno a dirvi intenzione di muovervi. And then something happens, and the foot moves. E poi qualcosa succede e si muove il piede. So this is the moment of the will, the empowerment. E questo è il momento della volontà, cioè del potenziamento. And remember that once you've performed an act, you cannot stop its consequences. E ricordate che una volta che cominciate una volta che eseguite un'azione, non potete fermare le conseguenze di questa azione. While it's still an intention, nothing's happened. Perché finché rimane a livello dell'intenzione, non è successo ancora niente. So this is a very important distinction to make. Quindi questa è una distinzione molto importante da fare. So if you have an intention to kill somebody, nothing's happened yet. Quindi se avete l'intenzione di uccidere qualcuno, non è ancora successo niente. If the intention moves and creates a manner of murder. Se l'intenzione però si sposta e crea un modo per uccidere. This is a mental act. Questo è un atto mentale. It has its consequences. Ha già le sue conseguenze. It makes you want to murder the more. It makes you want to murder more. Perché ti fa voler uccidere di più, non solo l'intenzione. Before long you'll be on the website looking for a gun. In men che non si dica, sarete a cercare una pistola online, sul web. See, so everything begins in the mind. Quindi tutto inizia nella mente. Just bring these different techniques to mind and see if you can practice them. Slowly but surely you become more and more skillful. Quindi tenete a mente queste tecniche, cominciate a praticarle un po' per volta finché non diventerete sempre più abili nel loro uso. I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di un qualche aiuto. By your determination and commitment to the practice. Attraverso la vostra determinazione, il vostro impegno nella pratica. May you achieve the end of suffering sooner rather than later. Che possiate raggiungere la fine della sofferenza prima piuttosto che poi. Sadhu, sadhu, sadhu. So we can still do a little walking period, yeah? Quindi c'è ancora un tempo per fare una camminata. Seduto, 45.